voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Fabio Giulianelli e il gruppo Lube. Da 50 anni arredamento per cucine in Italia e nel mondo. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi ci porta a Treia, un comune di quasi 10.000 abitanti in provincia di Macerata, nelle Marche. Qui, nel 1967, Luciano Sileoni e Benito Raponi uniscono la prima sillaba dei loro nomi per fondare un marchio, Lube, che oggi è tra i più importanti in Italia e nel mondo per la progettazione e realizzazione di cucine. A raccontarci le vicende di un'azienda che l'anno prossimo compie 50 anni è Fabio Giulianelli, cognato di Luciano Sileoni e oggi amministratore delegato di Cucine Lube. Luciano Sileoni era un operaio che lavorava su un mobilificio su un paese limitrofo che cercava la sera di aggiustare lo stipendio proprio andando a montare i mobili. Poi da cosa nasce cosa? Dice: perché devo andare a fare questo lavoro per altri? Allora ha cercato di costruirsi il mobile da solo. La cucina era il mobile che andava per la maggiore e da lì è partito, sotto un garage. È stata un'avventura che proprio è fantastica, no? nel viverla dopo 50 anni, perché dal garage, se pioveva addirittura, aveva delle difficoltà proprio stagionali. E da essere riusciti ad arrivare a questo livello è proprio per la tenacia, per la forza di Luciano, proprio nel perseguire questo obiettivo. Il garage in cui si riparano i mobili però non basta più e l'ambizione di crescere porta i fondatori a rivolgersi alle banche in funzione di un rapporto prima di tutto umano tra piccola azienda e direttore di una filiale. Una storia di fiducia in un progetto che oggi ci sembra lontanissima, viste le sempre crescenti difficoltà che in questi anni le piccole e medie imprese riscontrano nell'accesso al credito. È successo che, come ne parliamo ancora oggi, con una sorta di ricordi non ripetibili, no? Lì c'era il famoso rapporto straordinario che si poteva raggiungere con il famoso direttore di banca, che aveva una responsabilità proprio nella persona. E allora Luciano, insieme a Benito, che Benito garantiva un po' più con i patrimoni che c'aveva, aveva un negozio, non aveva nient'altro. Però il direttore di banca da allora ha creduto su questa iniziativa, ha finanziato la costruzione di un primo capannone e poi da lì è partito. Ecco, ne parlo con questo affetto, con questo ricordo, perché sarebbe improponibile, no? Sarebbe impensabile oggi aprire un'attività se non c'hai delle garanzie, se non c'hai dei patrimoni addirittura superiori alla necessità di cui hai bisogno proprio per investire. Intanto nel 1974 in azienda arriva anche Fabio Giulianelli, che ci sta raccontando questa storia. Ma prima di diventare azionista e dopo amministratore delegato, anche lui è partito dal basso, facendo la gavetta e dovendo ricorrere agli espedienti più diversi, già solo per recarsi sul luogo di lavoro. Mio cognato mi ha preso proprio di sana pianta appena finito gli studi di ragioneria a 19 anni nel 1974 e via, mi ha portato che c'era bisogno e io abitavo su un paese vicino, praticamente dovevo cercare, non dico l'autostop, ma cercare sistematicamente qualcuno, e nella fattispecie era una signora maestra che dal mio paese insegnava lì a Treia, che dista, sono 15 chilometri, che praticamente la mattina mi mettevo lì a aspettare che lei partisse, perché non avevo mezzi, e non potevo magari, se pioveva, andare in Vespa, perché quel tempo c'avevo la Vespa, e lì praticamente era una specie d'autostop, e dovevo andare lì in azienda, e poi finché non ci siamo stabiliti lì a Treia, è stata sempre un qualcosa che mi riporto con affetto, perché questa era proprio le prime uscite mie dopo gli studi. Tornavo a casa che praticamente aspettavo l'operaio che usciva, che era lì vicino, e c'era qualcuno che lavorava lì, però io naturalmente la mattina non lo potevo aspettare, perché la sera tornavo con questo operaio che mi accompagnava fino a casa. Le aspettative di crescita e quelle di ritorno economico a un certo punto non coincidono più con le strategie dei due fondatori. Così nel 2003 si chiude il rapporto con Benito Raponi e a guidare l'azienda rimangono Luciano Sileoni e Fabio Giulianelli, che nel corso degli anni sono stati affiancati dai figli. Stiamo invecchiando, naturalmente. Io, Luciano, ho due figli, Simona e Alessio, che sono tutte e due all'interno dell'azienda con una responsabilità di marketing, Simona, e Alessio proprio di progettualità delle cucine. Io ne ho tre, di cui due già operativi. Marcello segue la produzione con una responsabilità importante con i fornitori. Eugenio cura tutto l'estero, con un'esperienza straordinaria in giro per il mondo, e Massimo, appena laureato, sta facendo un'esperienza in un'azienda di elettrodomestici, pronto per entrare nei prossimi mesi. Il cuore dell'azienda è un moderno stabilimento, la cui estensione occupa un'area di 100.000 metri quadrati, di cui 75.000 coperti, dove lavorano oltre 550 dipendenti. Cucine Lube è presente nel territorio italiano con più di 1.600 punti vendita ed è in continua espansione nel mercato internazionale. L'ultimo fatturato ha raggiunto i 180 milioni di euro, ma nel corso degli anni non sono mancati momenti di difficoltà. Beh, il momento più difficile penso che sia quello contingente, e lo dico proprio con cognizione di causa, quella di qualche anno fa, no? Quella della criticità dei miei negozianti, la criticità che le banche toglievano credito con rientri a volte immediati proprio dei negozianti che erano magari impegnati con investimenti, con qualcosa che naturalmente non potevano più affrontare. E questo da parte dell'azienda è diventato un impegno. Noi a un certo momento non producevamo e vendevamo solo cucine, ma l'abbiamo dovuti sostenere anche finanziariamente, sia clienti e addirittura fornitori, perché il fornitore, che era un piccolo artigiano, una volta condizionato dai crediti in banca, aveva bisogno di liquidità. E allora l'assurdo era che noi dovevamo addirittura finanziare il nostro fornitore nell'approvvigionamento del materiale. Oltre a farsi carico delle difficoltà dell'indotto su cui poggia le proprie basi, l'azienda ha dovuto anche differenziarsi per reggere all'impatto della crisi economica. L'innovazione è stata quella non di creare nuovi prodotti, ma quella di mettere sul mercato nuovi canali distributivi, copiando la strategia di colossi internazionali in settori non proprio inerenti ai mobili. Ci siamo dovuti mettere in discussione per capire quali erano le necessità, dove andavano i consumi. E allora, guardando proprio, senza farne mistero, dei successi delle altre realtà, nella fattispecie lo dico in una maniera assolutamente rispettosa, di quello del successo, mettiamo, di Zara, no? Dove la loro espansione, che di fatto dava la percezione a chi compra di avere un qualcosa che era gratificante nonostante un prezzo competitivo, conveniente, una convenienza che chiaramente chi va lì ha la certezza di un'offerta in quella maniera. Dico, ma perché non lo faccio anche io nelle mie cucine? Dato che le cucine hanno un canale distributivo ben delineato, mancava un'offerta che dava gratifica all'acquisto, ma ad un prezzo conveniente, che era proprio l'evoluzione della crisi stessa, perché alla fine, quando uno doveva spendere, deve spendere, avere la gratifica a dire che la cucina, comunque quella che ho comprato, anche conveniente, è della Lube. È stata questa scommessa che ci ha fatto partire col marchio Creo, un canale nuovo di vendita, perché non è un prodotto nuovo, ma un canale distributivo nuovo, che dava convinzione, certezza, e darà certezza proprio a chi vede nel negozio questo marchio, sa come Zara che troverà una cucina di qualità conveniente, la qualità garantita dal gruppo Lube ad un prezzo più accessibile. Al marchio Creo si affianca anche quello di Borgo Antico, un canale distributivo per la cucina in muratura. L'innovazione di Cucine Lube però non si ferma solo a questa distinzione. ma punta anche all'investimento per anticipare il futuro in un progetto di sviluppo della realtà virtuale negli showroom, come ci spiega Fabio Giulianelli. In collaborazione con l'Università di Camerino, che abbiamo un rapporto veramente anche territoriale, no? Noi Camerino è un'università storica che è vicino al nostro paese. E allora con loro stiamo portando avanti questo progetto, che chiaramente è un qualcosa che deve essere necessariamente perfezionato, però fa capire che il poter toccare quello che un domani potrebbe essere la tua cucina a casa, fa percepire come sarà l'ambiente, come sarà... È il lavoro che prima dicevo, nella tecnicità della cucina, ma anche nella progettazione, è molto importante. Allora fa percepire all'utente, al cliente, cosa si troverà di fronte una volta acquistata la cucina, che poi lì, mentre c'hai questa situazione che vedi, puoi cambiare colore, puoi cambiare modello. È una situazione, quando la realizzeremo, fantastica, perché è un valore aggiunto alla vendita, naturalmente. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.